Rock FM. Queste teste calde del rock and roll che a volte per una loro passione si mettono a collezionare. Lei freak cosa colleziona? Domanda stupida che ho fatto. Freak Antoni, lo dico io, colleziona tutto. Diciamolo. Ed in particolare bottiglie di chinotto. Dannata. Ma nel test attitudinale di quest'oggi parlavamo invece di Jason Kay, cantante dei Jamiroquai. Forse colleziona Ferrari, come ipotizzato dalla prima soluzione? Ma guardi, io sarei tentato di rispondere sì. Allora, è la risposta esatta. Quante ne possiede? Ce lo dica. Più di 20. Hai capito, ragazzino? Si è sa che garage da... che ha, soprattutto. Sì, infatti poi si è messo da parte qualcosina per la vecchiaia. Esatto, 20 Ferrari, complimenti. Quindi non colleziona conchiglie giamaicane a forma di cuore, anche se sarebbe carino come collezione. Molto interessante, anche un po' complicata. Mentre aerei militari, anche quello della Prima Guerra Mondiale, sarebbe un filo spazioso. Ci vuole spazio per... Quanti punti se avete risposto al... Un paio. Se avete scelto la risposta giusta, due. Un paio di punti. Sì. Se avete sbagliato... Continuate a restare con noi. Nessun punto, ma siate costanti. Happy ending, bravo. I'm a man, ci tiene a precisarlo più e più volte. Joe Jackson, io sono l'uomo, io sono il vostro uomo. L apostrofo Ariele, Mister Trombetta, S apostrofo Padino. e fricantoni. Anche quest'oggi fino alle 9. Questa è la formula vincente di pane, burro e rock and roll. Formula vincente che fa scattare la scintilla grazie ai numerosissimi messaggi che giorno dopo giorno arrivano. Ancora qualche saluto veloce. Gio22, disperato perché non si sente a Padova, Rock FM. Vi sto facendo un'ottima pubblicità. Bravo! Un saluto anche a Nick63. Per potenziare il segnale, perché non proponete un contributo ai fan di Rock FM tipo 5-10 euro a testa? Ma Nick, non si può. In realtà stavamo pensando a una nuova rubrica verso Natale che si potrebbe chiamare Un vitalizio per Ariel e Freak. Questa è l'idea base. Ci lavoreremo e vi faremo sapere comunque. Fate gli auguri veramente rock a mio fratello Big Ed per il suo compleanno, Alessandro da Firenze, fatto! Un saluto a Gibbina da Genova, Elisa da Firenze, un amico milanese, fare Joe Perry mentre sono in macchina sulla tangenziale. È rock? Sì, ma è pericoloso, Paolo, è molto pericoloso, Paolo. Adriano da Bogliasco, anche lui incarognito per problemi di frequenza che salta quando si ferma la macchina. Riccardo da Firenze, le canzoni preferite da mia figlia Asia di 8 anni sono Enter Sandman dei Metallica e The Jack degli AC/DC. Aia, complimenti a padre e a figlia. 25 anni, ma sono un po' triste. Dream On era quello che mi ci voleva. Pami. E certo che diventare felici con Dream On, sei messa bene come noi allora, eh? Siamo sulla stessa barca, amici ed amiche. La barca del rock and roll. Li chiamavano Boomtown Rats e loro si lamentavano perché lunedì proprio non gli andava giù. Fortuna che oggi è martedì e stiamo in una botte di ferro. Aia, aia, da scaletta vedo collegamento col Giappone. Non si può saltare, eh? Bisogna farlo per forza. Silicon chip inside her head gets switched to overload, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold, and he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Types to a waiting world. A mother feels so shocked. Father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now I ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Make them stay at home. lay down. Appuntamento che sta diventando una consuetudine negli studi di Rock FM, aprirci da Milano al mondo, perché rinchiuderci? Perché non andare a scoprire come suona il rock and roll in Giappone? Ma certo, certo, pane, burro e rock and roll vuole aprirsi al mondo. Io non ho la più pallida idea di quale speaker avremo quest'oggi, visto che fino ad ora sì, quattro diversi ne abbiamo passati. È vero, strano, c'è questa stranezza per cui cambiano continuamente, ma è un grande scoop, sì. Me lo lasci dire, grande sì, sì, scoopata, lo dica pure forte. Scoopata questo. Sento collegamento che Spadino già ci mette sì. In connessione. Bravo, Milano chiama Tokyo, Tokyo rispondi. Hello, Tokyo, radio Tokyo. Eccole, welcome back, bentornati sulle frequenze. Arigato dal DJ Ariele e da Freak Antoni, salve. Frigatoni famosi, molto famosi qua in Giappone. Veramente? Famosi, famosissimi. Ci ascoltate in streaming via. Conosci Frigatoni, conosci Ariele, bravi. Sì. Ma come mai parla così bene l'italiano? Io DJ Frigatoni, andato da piccolo. Beh, quindi è la prima volta che ci sentiamo? Frigatoni. Senta, DJ Frigatoni. Mi scusi, ma gli altri suoi colleghi, quelli degli ultimi collegamenti che ci hanno fatto sentire la numero uno? Indisposti. Ma il grande Frigatoni sulle frequenze. Frigatoni! Salve, hello, welcome. Arigato. Io a DJ Frigatoni e anche cantante rock and roll. Ah, anche un cantante. Rock and roll. Dovrebbe subito spedirci qualcosa qui a Rock FM. Potremmo. Famoso cantante rock Frigatoni. No. Solista o canta in un gruppo? Io canto gruppo. Ah, come si chiama il gruppo? Il gruppo si chiama. Guardi, ci è difficile comprendere la vostra lingua, non si offenda. Strano idioma per noi. Non abbiamo le scuole. È molto semplice, vuol dire come due cose che contro uno contro l'altro. Uno contro un po' un cozzo. Come? No, scusi. Scusi, l'ho portato io sulla cattiva strada. Ho detto cozzo. No, è uno schianto, una specie di uno schianto, scoppio, esatto, uno scoppio, uno schianto. Schianto. Esatto. Vabbè, però già ci sono gli schianti. Certo, a Bologna. Ma allargo un attimo. Lei è il cantante, qualche hit single della formazione. Mi piace piccole geishe. Yeah. Non so che non conviene. Piccole geishe sono bionde, piccole geishe sono more, tante. Sembra innanzitutto come fa a parlare così bene l'italiano. E poi grande successo. Ma queste mi piacciono le sbarbine, abbia pazienza. Sì. Sembra una canzone italiana. Piccole geishe. Non sbarbine, piccole geishe. Ma altra canzone famosa. Sì. Sì. Un sake ogni due ore è un gran viaggio da signore. Un sake ogni due ore. Questo è gelati. Senta DJ Frigatoni, esatto. Io non voglio essere polemico, senta a questo punto, però mi sembrano le traduzioni letterali dei brani degli Schiantos. Sì. Quindi qui c'è un problema di plagio. Problema? Sì. Ci sono dei problemi. Ci sono gli estremi per una denuncia internazionale. Guardi, lei ha plagiato le canzoni degli Schiantos, le ha copiate pari, le ha tradotte in giapponese. Non gridi, per favore. No, aspetti. Ancora. Frigatoni, no. Aspetti, okay. Parliamone. No. Non volevo offenderla, non faccio. Guardi, no, aspetti, possiamo parlarne, dividiamo la SIAE. Attenzione. Aspetti. Sento, come al solito ci sono dei pronto. Aspetti, Tokyo, Frigatoni. Spadino. No, no, è caduta. Senta, è caduta che, ancora la... Che sensi di colpa. Mamma mia. Stava però erano male. Copiate, stava... copiate proprio. Beh, copiate erano copiate. Scatta però... la denuncia. Love, love above. Now it's time to trick me in love. molto preciso. It's all right now. 10 minuti al termine di Pane, Burro e Rock and Roll. Ci sono i Free. Che roba, ragazzi. Che mood. Allora, cosa succede? Quotidianamente al nostro numero di SMS riceviamo messaggi per i quali nessuno crederebbe cosa state scrivendo. Nessuno ci crede, insomma, pensiamo che la state buttando lì. Allora poi la redazione ricontatta alcuni di voi per scoprire se è vero quello che ci state scrivendo oppure no. Devo confessare che il 90% delle volte è vero, che siete messi male, insomma, siamo messi male anche noi, stiamo sulla stessa barca. C'è un altro tormentone della nostra trasmissione, che è la missione in codice Davide contro Golia, sottotitolo La nicchia vincerà, una missione che anche oggi è stata chiamata in causa da alcuni di voi, che chiedevano cosa possiamo fare per aiutare Pane, Burro e Rock and Roll nella terribile lotta degli ascolti. Beh, guardate, abbiamo ricevuto un messaggio da Firenze di un'amica che secondo me una buona idea ce l'ha. Benvenuta Fra su Pane, Burro e Rock and Roll. Tutto bene? Sì, grazie Ale, tutto bene. Allora, Fra ci ascolta da Firenze. Faccio un po' un'introduzione alla De Filippi. Fra, 28 anni, ci ascolta da Firenze. Va al lavoro in bicicletta, cosa molto ecologica, molto rock. Economica. Ha imparato da poco ad andare in bicicletta, mi confessa anche di non essere bravissima. No, infatti. Solitamente prende le strade al contrario, queste cose un po' rock, no? Molto rock. Fra ha un po' la testa fra le nuvole, senza offesa. No, è vero. Però Fra ha avuto un'idea geniale per diffondere il verbo di Rock FM. Esatto. Cosa combini? Allora, praticamente ho comprato una borsa a forma di chitarra. Sì. E quando l'ho comprata non lo sapevo, ma hanno spiegato che all'interno aveva una cassa, una piccola cassa che si collega alle MP3. Io la mattina metto il mio Pane, Burro e Rock and Roll e lo professo, diciamo, per tutte le vie del centro. Cioè, ci vuoi far credere che tu vai in giro per Firenze in bicicletta con una radio nella borsa, con un altoparlante a forma di chitarra a manetta? Sì, a manetta, contromano, nonostante abbia imparato ad andare in bici da 3 anni. Allora, la reazione della gente che ti vede passare? Ma molti mi chiedono dove ho comprato la borsa. Immaginavo. Che tra l'altro interessa, credo, anche ai radioascoltatori. Si può dire? Ma se voi volete io lo posso anche dire. Dai, ma dillo, sì, sicuramente. Allora, borsa di Cartisa. Ah, ok. Ok. Cartisa cos'è? Una marca, perdonami. È una marca, sì, okay. Sì, vende valigie, borse, così. Okay. Ho visto la pubblicità. E comunque, vabbè, oltre a pubblicizzare la borsa, io vorrei pubblicizzare appunto e professare il verbo di Rock FM. Esatto, quindi poi quando dai la marca della borsa dici anche però devi ascoltare Rock FM. Certo, infatti una ragazzina che consegnava i giornali stamattina gli ho detto guarda, ascolti Rock FM, è una figata. Campi quindi... cent'anni. Senti un po' Fra, in questo istante dove sei? Allora, senti, io sono all'incrocio, praticamente sono in via del Corso. Ok, a Firenze, sulla sua bicicletta. Sì, verso il Duomo, quasi vicino al Duomo. Senti, questa cosa Fra la fa tutte le mattine, non vedo perché non fare l'esperimento anche adesso. In questo momento sei ferma? Io in questo momento sono ferma all'incrocio, vorrei fare tasso. Ho anche chiesto a Fra di abbassare la radio perché sennò ci sarebbe stato il rientro. Me ne sbatterei del rientro. Se sei pronta, intanto ti saluto. Stai attenta, Fra, No, no, non farci preoccupare. Vabbè. Facci sentire che ascolti veramente la radio e parti in bicicletta. Vado. Via, Fra, per le strade di Firenze. Io non ci credo. Non ci credo che ascolta la radio. Prova. C'è il ritorno. Ciao Firenze. Siamo sulla bicicletta di Fra. Dovete ascoltare Rock FM. Fra, come va la bici? Tutto a posto? Corri Fra. Spargi il verbo di Rock FM. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white, you say black, I say, by Jesus, shark. I say, him and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say, Rose. I say, Royce. Say, God. Give me a choice. Say, Lord. I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is. Sulla bicicletta di Rosy che chiudiamo la puntata di oggi. Sì, di Rosy, ho sbagliato, di Fra, perdonami Fra, un saluto. No, Rosy è l'amica che ci ha segnalato via mail la tua borsa nel giro di 2 secondi. Qui i radioascoltatori segnalano con immagini tutto quanto. Grazie Fra, buon arrivo al negozio. Un saluto a tutti, perché in realtà è terminato lo spazio a mia disposizione. Abbiamo anche un amico milanese che dice che fa la stessa cosa, di andare in giro con la bicicletta con lo stereo a palla. Grazie amici! Se vinceremo sarà solo grazie a voi! Ai ai ai, ci si risente domani alle 7! Che orgoglio che siete, che orgoglio! Pane, burro e rock and roll. La tua colazione torna domani. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Tracu, tracu, tracu, tra, truta, ruta. È andata anche per questa 32esima puntata. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM.